Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come ricorderete, la scorsa settimana abbiamo affrontato la storia di Milly Giaccone, figlia del medico legale Paolo Giaccone, ucciso a Palermo da Cosa Nostra perché si rifiutava di falsificare alcune perizie che avrebbero di fatto scagionato autori di un reato, anzi veramente si trattava di 4 morti per le strade di Bagheria. Dopo quella segnalazione e la segnalazione sul mio blog Guardie o Ladri della storia di Milly Giaccone, siamo venuti a contatto e a conoscenza di un'altra storia che è molto simile a quella di Milly Giaccone e che anche questa si incanala nella memoria dimenticata di questo paese nei confronti delle vittime di mafia e dei familiari di vittime di mafia. La storia che raccontiamo è quella di Franco Mancuso, che è il figlio, uno dei figli di Lenin Mancuso, poliziotto ucciso a Palermo il 25 settembre del 1979 insieme al giudice istruttore del Tribunale di Palermo, Cesare Terranova, al quale faceva da scorta, da autista. Ebbene, la storia di Franco Mancuso è un'altra storia di memoria tradita da parte del nostro Stato. Buongiorno, dottor Mancuso. Buongiorno. Allora, racconti la sua storia di familiare, di vittima di mafia, come dire, dimenticato dallo Stato per anni o comunque messo in difficoltà. All'epoca dell'uccisione di mio padre ero studente, laureando in ingegneria. Subito dopo questo evento ho dovuto cominciare a lavorare, quindi ho interrotto gli studi che poi comunque ho ripreso e portato a termine qualche anno dopo con molte difficoltà. E sono stato assunto dal Banco di Sicilia, che allora era ancora esistente, ora non più perché è stato assorbito da Unicredit, solo che avendo l'anno scorso maturato 30 anni di anzianità, e il mio datore di lavoro, che aveva così voglia di sfoltire il personale, mi ha convocato dicendomi che aveva preso contatto con l'INPS e che, avendo esaminato la mia situazione, potevo fruire dello scivolo previsto per gli orfani di mafia. E questo, come vedete, cari radioascoltatori, è qualcosa di simile a quello che era accaduto anche a Milly Giaccone. Vale a dire, insomma, uno può andare in pensione con un anticipo rispetto al dovuto se è un familiare di vittime di mafia. Però che cosa accade, Mancuso? Questa richiesta da parte del mio datore di lavoro ho manifestato qualche perplessità, perché sapevo che l'applicazione di questa norma era piuttosto controversa per le vittime di mafia, mentre era tacita per le vittime del terrorismo, perché purtroppo in Italia esiste anche una differenziazione del dolore secondo se la bomba o l'agguato sia di natura terroristica o sia di natura mafiosa. Ammesso che la mafia non abbia anche una finalità terroristica. Certo, certo, ma infatti questo l'abbiamo messo in evidenza anche con la storia di Milly Giaccone. Ma a questo punto, quindi in questo andirivieni fra pensione, non pensione, dubbi, che cosa accade? Ho manifestato qualche perplessità, tant'è che ho subordinato questa la mia richiesta di la mia domanda di pensione all'acquisizione di un parere scritto da parte dell'INPS che certificasse la possibilità che mi venisse applicato il beneficio. A che mi sono recato all'INPS, ho fatto una regolare istanza che è stata protocollata e dopo qualche paio di settimane mi è stata data una risposta ufficiale, protocollata, eccetera, eccetera, con la quale si attestava che avevo diritto a questo, allo scivo, a questo beneficio. E quindi lei va in pensione? Ho immediatamente a presentare la domanda di pensionamento. È stata protocollata, accettata, tant'è che mi è stato erogato il rato di pensione di febbraio 2010 e marzo 2010 regolarmente, senza nessun problema, se non che colpo di scena, la richiamano al lavoro. a fine aprile, no, peggio, a fine aprile mi convocano all'INPS e candidamente mi dicono che da una revisione della documentazione a Roma si erano accorti che non, questo beneficio non spettava alle vittime del, ecco, io vorrei, io vorrei fermarmi qui, cari ascoltatori, un attimo per sottolineare la follia della burocrazia italiana che concede, toglie, rimette, diversifica fra vittime di terrorismo mafioso e vittime di mafia, quindi morti di serie A, morti di serie B. Tutto questo fa parte di un percorso comunque di memoria dita da parte nostra, è inutile negarlo. Ora io voglio farla breve perché la sintesi è che alla fine Franco Mancuso è riuscito ad approfittare di questo scivolo e quindi si è avviato al prepensionamento. Però, e qui concluderei, Mancuso, le pare possibile una cosa del genere in Italia? No, non sono riuscito ad andare in pensione perché poi sono rimasto per circa 3 mesi senza pensione e senza stipendio. Sì, ma alla fine poi è riuscito ad avere questo... sono riuscito ad andare in prepensionamento. Esatto. Nel senso che siccome la mia azienda era un'azienda, diciamo, in crisi e aveva preordinato un prepensionamento, attualmente sono in prepensionamento. Esattamente, Con il minimo... di anzianità dovuta. Io ringrazio Franco Mancuso per questa storia. Se ce ne fossero delle altre, vi prego di segnalarle a sottotiro@radio24.it. Siamo qui per raccontarle. Grazie in regia Paolo Corleoni e in studio a Laura Fagin e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.